in primo piano. Eccoci qua, direttore. Allora, l'apertura dei vari giornali, insomma, inevitabilmente un'apertura che ha profilato quello che poi si sono rivelati i dati nella notte, però ovviamente non ci sono le notizie secche, perché i dati, le percentuali continuano ad arrivare. Sì, sì, c'è molta cautela nell'apertura dei quotidiani, anche delle prime edizioni. Addirittura qualche quotidiano, non faccio il nome, ha titolato Europee, l'Italia ha scelto. Poi dopo le seconde edizioni, le terze edizioni durante la notte hanno affinato questi titoli, e i titoli sono più o meno accomunati da un unico giudizio, anzi da vari giudizi, che partono dal fatto che Berlusconi non ha sfondato, ha mantenuto le posizioni, anzi ha perso qualcosa, gli ultimi dati lo danno al 35%, che la sinistra crolla in Europa, che il Partito Democratico cede qualcosa, ma non è per questo un crollo, e quindi sul fronte del Partito Democratico c'è anche qualche annotazione positiva. Adesso leggeremo i giornali, ma vi presento anche un ospite che durante la settimana poi terrà lui la rassegna stampa, un ospite di lusso, per così dire. Ivo Diamanti, buongiorno Diamanti. Buongiorno, buongiorno direttore. Ivo Diamanti è sociologo, commentatore... Politologo, sociopolitologo, possiamo forse inventare questo nome, uno dei più attenti osservatori della realtà politica. Il suo libro recente, Mappe dell'Italia politica, bianco, rosso, verde, azzurro e tricolore, e scrive regolarmente tutte le settimane su Repubblica. Proprio ieri è uscito un titolo sulle elezioni pop. Elezioni pop, anche i risultati sono dimostrati pop, Diamanti? Ma devo dire che i risultati, a differenza delle campagne, sono concreti, cioè finalmente si ragiona su dati ben precisi, ben definiti, cioè direi che poi magari i commenti potranno essere pop, il modo in cui verranno reinterpretati dai partiti, dai leader, ma mi pare che per fortuna siamo passati da una fase virtuale tutta costruita oggi, almeno nelle settimane scorse, sulla figura del Premier, certo. Come avviene sempre, direi da 15 anni, ma per la prima volta con il Premier scelto anche e non solo dai suoi avversari politici, anche dalla stampa, come bersaglio. Cioè, direi questi risultati non sono pop, sono risultati che avranno, al di là del modo in cui vengono letti e si debbono leggere, che avranno sicuramente un impatto in seguito. Ecco, vediamo allora i titoli dei giornali. L'Unità, fermato Berlusconi, il PD resiste, avanza Di Pietro, Premier ostaggio di Bossi al 9,5%. Il Corriere della Sera, il voto delle europee delude il Popolo della Libertà, prime proiezioni frenata rispetto alle politiche, avanza la Lega, cade il Partito Democratico, balzo di Di Pietro. L'UDC attorno al 6%, Pannella e la sinistra radicale divisa in due restano fuori dal Parlamento di Strasburgo. Questo può essere un altro tema di commento. Vincono Bossi e Di Pietro, dice Il Giorno, il quotidiano nazionale, insieme al resto del Carlino della Nazione. Berlusconi frena, il PD perde ma non crolla, sparisce la sinistra radicale, l'Europa a destra, bene Sarko e Merkel, crollo socialista a Parigi e Madrid. La Repubblica, fermato Berlusconi, cala il PD, boom della Lega e Di Pietro, astensione e record, tutta l'Europa va a destra. E anche La Stampa ha il titolo centrato sull'Europa, la sinistra crolla in Europa, prime proiezioni in Italia, regge il governo, il PD non affonda, boom di Lega e IDV. C'è da dire appunto che qualche titolo è stato fatto anche sulla base di proiezioni che alcune si sono dimostrate abbastanza fallaci, altre hanno invece colto nel segno. Per esempio dobbiamo dare atto alla RAI, che ha dato il 35% al Popolo della Libertà, come di fatto gli ultimi dati sembrano affermare, il Popolo della Libertà si ferma al 35%. Il Sole 24 Ore, Popolo della Libertà e Partito Democratico in frenata, bene Lega e IDV, l'Europarlamento resta ai popolari, giù i socialisti. Astensione record, 57% in Italia. Battuti Brown e Zapatero, Sarkozy si rafforza. Uno stop per Berlusconi è il titolo di Stefano Folli. La verità, dice Stefano Folli, è che le due forze maggiori del bipolarismo, PDL e PD, che insieme sommano oltre il 60% dei voti, sia pure in un quadro di forte astensionismo, sono entrambe in calo. È un brutto segnale per l'assetto bipolare del paese, anche se è presto per ricavarne conclusioni definitive. Senza dubbio oggi Casini e il suo partito di centro possono sentirsi un po' più tranquilli oltre che soddisfatti. La terza via non è preclusa. Quanto alla sinistra radicale, pur fuori dal Parlamento, può avviare, se ne sarà capace, un processo di riorganizzazione. Infine, conclude Stefano Folli su Sole 24 Ore, Pannella ed Ebba Bodino continuano a rappresentare un'istanza laica di cui è poco credibile che il futuro centrosinistra possa fare a meno. Allora, Diamanti, il vero sconfitto di queste elezioni è Berlusconi, oppure con il 35% dei voti è comunque un vincitore? Ma è singolare il modo in cui normalmente noi ci troviamo a discutere e a valutare i risultati elettorali, no? Nel senso che da un punto di vista squisitamente tecnico sarebbe corretto comparare i dati delle europee con i dati delle europee, nel senso che precedenti, nel senso che ogni elezione ha le sue logiche, i modi in cui vengono svolte, le sue regole, quindi di fatto lo faccio proprio anche per dovere professionale, il modo tecnicamente corretto sarebbe comparare tra loro elezioni omogenee. Di fatto non è così, perché la campagna elettorale addirittura dà anzitutto un significato politico nazionale, non europeo, al voto, e perché nel frattempo, intendo dire rispetto a 5 anni fa, è cambiato il mondo, no? E anche l'Italia. La stessa offerta politica è profondamente cambiata per la prima volta dopo l'anno scorso, anzi per la prima volta si trovano due partiti come il PDL, non solo il PD e il PDL, che con questo specifico nome si confrontano. Il PDL è un partito e non una coalizione e non una federazione come l'anno scorso. Allora, se ogni elezione è definita dalla posta in palio, se la posta in palio è definita dalla campagna elettorale, è vero che questa campagna elettorale ha avuto sostanzialmente tre questioni. La prima è Berlusconi e il suo partito, cioè contro tutti, e anzi il partito di Berlusconi e se stesso contro tutti. È stato issato in questo ruolo dagli avversari e, diciamolo pure, lui non solo non ha fatto nulla per evitare questo ruolo, ma lo ha sempre imposto da sempre, cioè questo è una sorta di referendum su di lui. Due, la seconda questione evidentemente è la tenuta anche del Partito Democratico, dato in estinzione, e anche qui tutto è dato dalle aspettative. Berlusconi ha fissato un'asticella altissima per se stesso. Le aspettative del PD erano talmente basse da rendere ancora, come dire, accettabile un 26-27%, accettabile, non certamente un successo. Poi l'altra questione effettiva è il rapporto all'interno di quelle che possiamo definire per ora le coalizioni, cioè quelle che l'anno scorso si sono confrontate e misurate, quella che ha sostenuto Berlusconi da un lato e quella che invece ha sostenuto Veltroni. Sotto questo profilo, che dire, se noi ragionassimo in termini meramente di coalizioni con la comparazione dell'anno scorso, dovremmo dire che non è cambiato molto, cioè se sommiamo i voti della Lega con certo. quelli del PDL, siamo più o meno sul risultato dell'anno scorso. Se noi sommiamo i voti del Partito Democratico con i voti del Partito Radicale e di Pietro, siamo più o meno come l'anno scorso. Però, giustamente diceva Folli, i due primi partiti avevano il 70% dei voti un anno fa e adesso arrivano al 60%, quindi c'è un profondo cambiamento all'interno delle due coalizioni, e soprattutto diciamo che questa volta, se la competizione era Berlusconi contro tutti, Berlusconi ha vinto, pur perdendo formalmente nel 2006 le ultime due elezioni, e se questa era l'apposta, sicuramente non ha vinto queste elezioni. Indubbiamente. Grazie Diamanti, ci sentiamo tra poco dopo le notizie sul traffico. In primo piano. Rieccoci alla rassegna stampa, in linea abbiamo anche Ivo Diamanti, ma Alessandro Milan, le ultime notizie sul fronte dei risultati? Sì, ormai siamo al 98% delle sezioni scrutinate, dunque quasi addirittura d'arrivo, e le ultime percentuali danno il Popolo della Libertà al 35,16%, il Partito Democratico al 26,19%, la Lega che supera il 10%, sicuramente una delle forze che più ha vinto, 10,4%, Italia dei Valori 7,94%, dunque attorno all'8%, l'UDC di Casini al 6,47%, poi ci sono tutte quelle sotto lo sbarramento del 4%, questo è anche un altro tema, insomma non hanno superato Rifondazione, Sinistra e Libertà. Beh sì, il tema sulla sinistra sarebbe lungo da trattare, un po' un suicidio della sinistra, ma io mi fermerei un attimo sul fronte del Nord. Il fronte del Nord è il titolo dell'articolo di Massimo Franco, dell'editoriale sul Corriere della Sera. Dice: il successo parallelo della Lega promette di stabilizzare il governo, ma esaltando una competizione nel centrodestra tutt'altro che finita nel nord del paese. Sul Corriere della Sera vi segnalo anche un articolo di Gian Antonio Stella: abbiamo espugnato Codogné, la notte del grande sogno leghista. Ivo Diamanti, la Lega al 10%. Sì, allora diciamo, come sempre, se ragioniamo in termini di percentuale, per la prima volta la Lega ripete supera una soglia che aveva sfondato nel 96, però nel 96, visto che gli elettori erano ben numeroso, questo significa 4 milioni di voti, in questo caso siamo sopra e poco sopra i 3 milioni. Devo dire, un po' in contro in tendenza rispetto a quello che anche tutti ci attendevamo, La Lega Nord ha, come dire, rafforzato e confermato il risultato dell'anno scorso, ma non ha realizzato il sorpasso che ci si attendeva in nessuna delle grandi regioni, cioè non solo in Lombardia ma soprattutto in Veneto, dove almeno i dati che ho visto poco fa davano un 1% a favore del PDL. Cioè, paradossalmente il PDL, paradossalmente neanche tanto, rispetto alle aspettative, si è difeso notevolmente nel nord e ha perso nel sud, cioè i suoi voti il PDL l'ha perso nel sud, e la Lega ha guadagnato i suoi voti relativamente non tanto e non soltanto nel nord, ma una regione del nord che però è particolare come l'Emilia Romagna, dove a memoria ha superato l'11%, che non è poco, e aumentando i suoi voti in regioni tradizionalmente rosse del centro, la Toscana e soprattutto le Marche. Quindi questo è forse il primo voto nel quale la Lega del Nord non è più solo del nord. Diventa quasi un partito nazionale. Allora, centro-nordista. Io concluderei questa purtroppo breve conversazione con Diamanti guardando un po' anche all'Europa, e lo farei partendo dall'articolo sulla Stampa di Cesare Martinetti: la speranza non è più socialista. Leggo l'introduzione: la constatazione più desolata di questo voto europeo dominato dalle destre viene da Jack Lang, socialista francese di lungo corso. Il partito socialista non sa più dar voce alla speranza, è una constatazione diretta al grande partito che fu di Mitterrand, ma si può estendere a tutta Europa. In Germania l'SPD non approfitta delle difficoltà di Frau Merkel, in Francia l'ultimo socialista vincente, José Luis Zapatero, viene per la prima volta battuto dai popolari eredi di Aznar, in Gran Bretagna Gordon Brown sprofonda in un incubo shakespeariano. In Italia le cose vanno come sappiamo, e in questo momento il PD non è in grado di contendere la leadership a Berlusconi. Allora, Ivo Diamanti, è vero, la speranza non è più socialista? Beh, direi che è vero che c'è una crisi del Partito Socialista e dei Socialdemocratici, era già evidente negli ultimi anni, cioè da un po' di anni che di fatto ad avanzare sono le formazioni di centrodestra, però come sempre qui contano in parte le vicende nazionali e poi la specificità di queste elezioni, cioè dal punto di vista nazionale il risultato di Zapatero in Spagna è comunque un risultato di notevole tenuta per un paese nel quale i dati economici sono quelli sì sprofondati, su livelli impressionanti, insomma attorno al 40%, una cosa non irrilevante. In Francia è davvero un tracollo, e però e come evidentemente anche in Gran Bretagna. Diciamo che bisogna tener conto del fatto che noi in Italia, torno all'osservazione originale, no? In Italia noi compariamo questi dati con i dati politici, perché diamo un valore politico interno a questo voto, anche altrove, ma in misura molto minore. In Francia ha votato il 40% della popolazione, altrove anche di meno. In Italia per la prima volta i 2/3 degli italiani, ma altrove, ripeto, meno di metà della popolazione. La nuova formazione ecologista di Daniel Convertit in Francia, dubito che riuscirebbe a ottenere quello che ha ottenuto. Semmai c'è da un lato una crisi effettivamente dei socialisti, in generale della sinistra riformista, di dare speranza, e invece emergono dei competitors che non sono i soliti, gli ecologisti da qualche parte, ma da altre parti i partiti populisti e anche xenofobi sembrano quelli ad essere coloro che maggiormente contendono, soprattutto il voto dei ceti popolari, a una sinistra che ha come primo problema di rappresentare oggi i ceti intellettuali e pubblici. Grazie Diamanti, dobbiamo fermarci qui, il tempo purtroppo grazie. È tiranno, ci sarebbe molto da parlare, da raccontare, da analizzare, soprattutto anche sul fronte della politica vera e propria, della partecipazione dei cittadini. Lo faremo nei prossimi giorni. Un'ultima citazione di un giornale per uscire un po' dalla politica, la Gazzetta dello Sport. Si parla di politica in politichese, la Gazzetta dello Sport ha due titoli in puro sportivese: Eto'o si crede Ibra, Kakà si sente Real, chi capisce può capire.